La conferenza di Berlino, successo o fallimento? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. È assolutamente importante compiere e dare un contributo a tutte quelle attività che porteranno alla stabilizzazione pacifica della Libia. The Libyan dinar has lost about 10% of its value because of the blockade of the oil terminals. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Buon lunedì da parte mia, ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Fisani in regia. 349-238-6666 per porre domande e commentare il tema che è al cuore della puntata di quest'oggi di Nessun Luogo è Lontano. Potete commentare e porre domande anche via Facebook, Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, oppure Twitter, Nessun Luogo 24 e il mio account che è Giampaz. Allora, oggi è il giorno dopo la conferenza di Berlino. Che cosa si è deciso? Proveremo a ricapitolare i punti salienti di questo accordo. Un accordo in realtà evanescente, ve lo anticipo subito, perché se non c'è poi la volontà delle parti che stanno guerreggiando sul terreno e le agenzie e varie fonti libiche ci restituiscono appunto notizia di una ripresa degli scontri. In più bisogna aggiungere quel blocco dei terminali petroliferi e delle installazioni petrolifere che promette e rischia di mettere in ginocchio l'intero paese, ma anche andare a inquinare quella che è l'economia dell'intera zona del Mediterraneo. Insomma, è come se la crisi libica viaggiasse su due livelli diversi. Da un lato quella strettamente diplomatica, fatta da una selva di dichiarazioni incredibili, lunghissime. Se aveste sott'occhio le agenzie in questo momento, potreste impazzire nel sentire commenti, post-commenti, repliche, contro-repliche dei tanti attori internazionali che sono andati a Berlino proprio ieri. E poi, lo dicevo, c'è il terreno che parla tutt'altra lingua. Di questo parleremo, lo faremo con due ospiti in particolare, non voglio anticiparvi molto. La prima cosa che faremo, anche questo lunedì, è misurare la temperatura. Allora, la prima notizia che vi sottopongo è l'inasprirsi e l'aggravarsi della crisi, dello stato di allerta per la diffusione di quel coronavirus non ancora identificato che arriva dalla Cina. Secondo le prime analisi, i primi studi che arrivano dagli scienziati, dovrebbe essere qualcosa di molto simile alla SARS, quella crisi che parecchi anni fa aveva messo in allarme il mondo. Perché ve ne parliamo? Beh, perché allora innanzitutto nello scorso fine settimana sono stati riportati 139 casi in varie zone, tra cui anche Pechino, la capitale, ma anche Shanghai, importante nodo commerciale, non solo la provincia del Guangdong nel sud del paese. Il 25 gennaio, e questo è un motivo che allarma molti osservatori, si celebrerà il Capodanno cinese e sono previsti viaggi per 400 milioni di cinesi che viaggeranno in tutto il paese, aumentando anche le possibilità di contagio. Ultimissima notazione, che sembra puramente retorica ma in realtà non lo è: il presidente cinese Xi Jinping quest'oggi ha menzionato per la prima volta il virus, dicendo che il contenimento della malattia è una massima priorità per il governo cinese. Voi sapete quanto, come dire, in punta di penna arrivino sempre le dichiarazioni da parte di Pechino. Il fatto di nominare un fenomeno già ci dà, come dire, la gravità potenziale di questa possibile crisi. E poi ci spostiamo in Africa, dove dall'Angola arriva notizia di uno degli scandali e delle turbolenze finanziarie, ma anche politiche, ma se volete in parte anche di gossip, che promette di scuotere l'intero continente. There is a clear message that I want to live, which is, you know, one thing is your family life. My parents. La voce che state sentendo è un'intervista a Isabel dos Santos, la figlia dell'ex presidente dell'Angola, José Eduardo dos Santos, la donna più ricca di tutta l'Africa. La voce che avete ascoltato risale appunto a un'intervista del 2016, era in visita in Italia, in particolare a Cernobbio, e venne nell'occasione celebrata come forse l'icona del management al femminile africano. Insomma, una donna che si era fatta da sé, una donna che poteva essere anche un esempio per tante imprenditrici del continente africano. Peccato che un'indagine congiunta del Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi starà proiettando l'imprenditrice ai vertici delle cronache mondiali per uno dei più colossali casi di corruzione degli ultimi anni. Secondo questa accurata e lunga inchiesta giornalistica, Dos Santos e il marito Cindy Kadokolo avrebbero accumulato il loro patrimonio, sto parlando di oltre 2 miliardi di dollari, attraverso corruzione, nepotismo e ricorso ai paradisi fiscali, depredando sistematicamente le risorse dell'Angola, che dobbiamo ricordare è uno dei paesi più ricchi di risorse naturali, dal petrolio fino ai diamanti. Cosa esattamente i giornalisti hanno scoperto? Proviamo a entrare un po' nei dettagli di questo caso clamoroso. Lo facciamo con la voce di Joan Tilouin, giornalista delle Monde, esperto di Africa, che ha collaborato all'inchiesta. Sentite. Alors en fait, on a travaillé sur Le Monde abbiamo lavorato a questa inchiesta come media partner del Consorzio Internazionale per il Giornalismo Investigativo. Abbiamo analizzato più di 715.000 documenti riservati che molto probabilmente sono stati ottenuti grazie a un'operazione di hackeraggio. Questi documenti vengono in parte dalla società di private equity che si occupava della gestione degli affari di Isabel Dos Santos. Noi abbiamo lavorato su questi documenti in collaborazione con un centinaio di giornalisti provenienti da tutto il mondo, tra cui il New York Times, la BBC, il settimanale portoghese Expresso. Tutti i membri del Consorzio di Giornalismo Investigativo hanno pubblicato la prima parte di questa inchiesta ieri sera alle 19. Rivela infatti il dietro le quinte dell'impero economico di Isabel Dos Santos, figlia dell'ex presidente angolano José Eduardo Dos Santos e di suo marito, Cindy Kadokolo, un cittadino danese di origine congolese. Isabel Dos Santos è la donna più ricca di tutta l'Africa. Nella nostra inchiesta viene documentato come il suo impero economico sia di fatto basato su alleanze sistematiche con aziende statali, società pubbliche, per accedere al denaro pubblico che poi viene reinvestito e a volte indirizzato in circuiti finanziari offshore molto sofisticati. Quello che emergerebbe, insomma, è un apparato vero e proprio, un apparato a tutti gli effetti che era messo in campo per sostanzialmente arricchire il proprio portafoglio. Storia non nuova in alcuni paesi africani e più volte da questi microfoni abbiamo denunciato come tra le responsabilità di un mancato sviluppo di alcuni paesi del continente africano vi sia proprio la colpa da attribuire a un'elite molto spesso corrotta. È davvero così? E quali legami ci sono a livello europeo e anche globale? Proviamo a mettere il grandangolo, lo facciamo sempre con Joan Tilouin, lo ricordo, firma di Le Monde che ha collaborato a questa incredibile esclusiva e inchiesta. La corruzione, donc en Afrique, oui, c'est évidemment un immense problème. La corruzione in Africa è davvero un problema immenso, ma in questi casi, più che la corruzione, la vera questione è l'ottimizzazione fiscale, condotta attraverso circuiti offshore molto, molto sofisticati. Quindi dobbiamo sottolineare che l'evasione fiscale priva l'Africa di circa 50 miliardi di dollari all'anno, un'enormità con un peso davvero rilevante. Questa nuova elite africana è molto globalizzata. Basti pensare alla stessa Isabel Dos Santos, che è figlia di un presidente e ha capito tutto di come funziona attualmente l'economia globale. Si serve dei servizi di grandi banche occidentali e di grandi società di revisione. Nel caso specifico si trattava di PricewaterhouseCoopers, di Boston Consulting Group e altri. Quindi si tratta di un sistema complessivo che non è solo africano, ma è una questione globale che va avanti con la complicità, o perlomeno con la contiguità, dei grandi gruppi occidentali. Tutta questa situazione è costata molto all'Africa. L'Angola è un paese che si piazza al secondo posto come produttore di petrolio di tutta l'Africa e al quinto posto come produttore di diamanti. Quindi è un paese dotato di ricchezze enormi. Isabel Dos Santos ha sfruttato al massimo la ricostruzione del paese seguita alla guerra civile, condotta dal 1975 al 2002. Nel 2002 il prezzo del petrolio era molto elevato superava i 100 dollari al barile, quindi l'Angola ha approfittato di un anno di petrodollari a prezzi molto favorevoli, al quale vanno aggiunti anche i finanziamenti concessi dalla Cina a tassi altrettanto favorevoli. Con queste premesse, la ricostruzione ha innescato una corsa economica forsennata. Il paese ha sperimentato una delle crescite economiche più veloci del pianeta, ma allo stesso tempo anche un'immensa sottrazione di fondi. Miliardi e miliardi di dollari sono stati dirottati altrove. La voce di Jean Tilouin, giornalista di Le Monde, esperto di Africa, che assieme a tanti altri giornalisti investigativi ha messo le mani su questi documenti esclusivi per tratteggiare quella che una volta era appunto il ritratto di una businesswoman molto quotata anche all'estero, un simbolo per tutte le imprenditrici africane che volevano ottenere successo come lei, e poi quell'immagine si è disgregata in maniera inesorabile in seguito a questo scandalo. Certo, vedremo se vi saranno anche conseguenze dal punto di vista giudiziario. L'ultima notizia del nostro termometro internazionale ci riporta a Beirut in Libano, perché durante tutto il weekend vi sono stati nuovamente degli scontri, 460 feriti solo sabato a Beirut, 114 ieri. La repressione da parte delle forze di polizia si sta facendo sempre più dura, lo ricordiamo, i cittadini libanesi protestano per il caro vita, per l'assenza di corruzione, per la presenza, scusate, di corruzione, per il settarismo presente nella vita politica libanese, e sta protestando, è ben utile ricordarlo, dal 14 ottobre scorso. Questo è il nostro termometro internazionale, ma la notizia del giorno è quello che è accaduto ieri a Berlino. Oggi cercheremo di capire se si è trattato di un successo o di un fallimento. Si è appena conclusa la conferenza di Berlino, ci possiamo ritenere soddisfatti perché comunque abbiamo compiuto dei passi avanti. 55 punti condivisi che includono il cessate il fuoco, l'embargo condiviso per quanto riguarda nuove armi, un percorso politico istituzionale ben definito. È stato nominato anche il comitato militare congiunto, che quindi veglierà e monitorerà che la tregua sia rispettata. Avete sentito l'ottimismo nelle parole del premier italiano Giuseppe Conte, che ha elencato alcuni dei punti che si sono stabiliti e sui quali c'è stato accordo ieri a Berlino. Fresco fresco di Berlino c'è anche Roberto Bongiorno, inviato del Sole 24 Ore. Roberto, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, la prima domanda è a bruciapelo: condividi l'ottimismo del governo italiano? È un successo o un fallimento? Poi proviamo a elencare gli altri punti. Ma se non è un fallimento, comunque sicuramente non è un successo. Io sono più incline al pessimismo, considerando anche i precedenti della Libia. Sì. Insomma, tutti questi punti condivisi, ma alla fine il risultato è stato solo uno: un consolidamento del cessate il fuoco attraverso un embargo, perché l'embargo sulle armi è un colabrodo, quello sì, in vigore in Libia dal 2011, ma non ci sono neanche gli strumenti, non si è neanche stato parlato degli strumenti attraverso cui comminare le sanzioni, inasprirle, per cui c'è l'embargo, ma chi lo viola che cosa rischia? Assolutamente nulla per il momento. Ricapitolo brevemente quelli che sono gli altri punti sui quali c'è stato un accordo. È utile anche ricordare che erano presenti sia Haftar che Serraj, ma in due stanze separate, non hanno partecipato ai lavori direttamente. C'era questo andirivieni, no, Roberto, dei collaboratori che facevano su e giù dal Salone Grande dove c'erano i leader occidentali, che andavano a riferire ai due leader libici quello che stava accadendo, e questo già è bizzarro, ce la dice lunga. Sì, e quello che ho visto io, correvano anche abbastanza, sembravano abbastanza trafelati e preoccupati. Quindi era una sorta di contrasto a questo sorriso sul volto di ciascuno un po' forzato alla conferenza finale, un sorriso dovuto. Ricordo che corre voce che non abbiano nemmeno incrociato gli sguardi, cioè Haftar e Serraj non si sono proprio visti, si dice. Quindi questo è un po' emblematico, si parla di Libia, si parla di loro. Sì, decisamente. Poi cercheremo di sottolineare anche le altre assenze. Dicevo, i punti. Allora, mettere fine a quelle che sono le interferenze straniere. Rispettare l'embargo dell'ONU, faceva bene Roberto Bongiorno a ricordare, è in vigore dal 2011, ma è stato ripetutamente violato da tanti attori, a volte anche in maniera piuttosto palese. Cessate il fuoco. Beh, purtroppo il cessate il fuoco, le notizie, lo dicevo in apertura, che arrivano proprio per esempio dal sud di Tripoli, ma anche nell'altra linea del fronte, quella più verso Sirte, ci raccontano di raid da parte di Haftar, ragionevolmente i droni o l'aviazione messa a disposizione dagli Emirati Arabi Uniti, e poi delle contromosse sul fronte sud di Tripoli da parte di Sarraj. Quindi nei fatti questo cessate il fuoco per il momento non esiste. Andare a dissolvere le milizie, questo forse è il punto più oscuro e più emblematico, Roberto Bongiorno, perché dissolvere le milizie in Libia è, non so come dire, andiamo a dissolvere il braccio armato delle tribù, andiamo a dissolvere le tribù, vuol dire andare, come dire, a impattare in una delle anime, no, più radicate ormai della storia libica. Sì, ma questo lo sai benissimo anche tu che sei stato nel 2011 durante la rivolta. Il problema che tutti i premier libici che sono succeduti nel tempo è stato il problema impossibile, il disarmo delle milizie. È una cosa al di là da venire che richiede una serie di steps successivi molto lunghi, ma il problema è che Merkel, se mi permetti Angela, ha fatto una cosa diversa rispetto a tutti. È una cosa che invece hanno fatto tutti. Quella diversa è che ha invitato così tanti leader stranieri, anche se poi le dichiarazioni di intenti valgono quello che valgono, però è già qualcosa tutti insieme. La cosa che ha fatto tutti è lo stesso solito errore: non aver invitato al vertice le diverse anime della Libia, quindi anche le tribù, il forum delle tribù. E ricordo che la Libia è una società in cui le tribù ruocano un ruolo fondamentale, una società clanica, tribale, e le tribù risolvono i loro conflitti con dei meccanismi che possono anche essere estranei ai nostri. Assolutamente, fai bene a ricordarlo, Roberto Bongiorno. Proprio la settimana scorsa, intervistando il vice ministro degli esteri Marina Sereni, sottolineavamo e portavamo all'attenzione della politica italiana proprio questo aspetto. Dicevamo, ma come? Fra l'altro all'epoca, era giovedì, venerdì, non ricordo, già era in dubbio la partecipazione di Sarraj, e quindi già non avere uno dei due pesi massimi era, come dire, una stranezza. Ma appunto non invitare tribù importanti come chi sta a Misurata, per esempio, ho chiesto, è un errore, e il viceministro Sereni diceva, ma attenzione, non confondiamo i piani, la conferenza di Berlino è dei grandi attori internazionali, poi il dialogo intralibico sarà qualcosa che dovrebbe essere fatto contestualmente. Certo, sarà difficile da fare. Fatemi finire brevissimamente, poi torno da Roberto Bongiorno, perché c'è un aspetto, e secondo me è la vera notizia di quest'oggi. Mi dissocio, come dire, dalla narrativa mediatica che ho trovato e letto fino a questo momento, senza arroganza, per carità, però siamo fermamente convinti che la notizia sia un'altra. Allora, ritorno a un processo politico, questo viene detto nel documento finale, ma mi sembra piuttosto vago, rispetto dei diritti umani. Anche qui, insomma, mi sembrano, come dire, delle dichiarazioni di intenti molto molto condivisibili, ma poi c'è, attenzione, il capitolo petrolio. Allora Roberto, ti faccio sentire la fotografia di quello che è, come dire, l'industria petrolifera e come è stata messa in pericolo con una mossa tanto azzardata quanto forse geniale, ci metto un punto di domanda, dal generale Haftar, e poi ne parliamo. Mentre i principali leader politici mondiali negoziavano a Berlino la tregua fra i due protagonisti della guerra civile libica, Khalifa Haftar, comandante dell'esercito nazionale libico, e al-Sarraj, capo del governo di unità nazionale, qualcosa a Tripoli stava succedendo. I combattimenti fuori della capitale sono proseguiti per tutto il fine settimana e la produzione petrolifera, come anche l'esportazione, sono state interrotte. La compagnia petrolifera nazionale, NOC, è stata costretta a limitare la produzione nei giacimenti petroliferi di Sharara e El Fel, nel sud-ovest della Libia, a causa della chiusura dell'oleodotto di Hamada Zawiya da parte di membri della Petroleum Facilities Guard, guardie degli impianti petroliferi, ex milizia che controlla pozzi e giacimenti della Libia orientale e che è al soldo dell'esercito nazionale libico di Haftar. Dall'oleodotto di Hamada Zawiya passano le condutture di El Fel e Sharara per Melita Oil & Gas, società operativa in Libia in joint venture fra NOC ed Eni. Chiudendo i giacimenti di petrolio e i porti, Haftar sta negando la più importante fonte di approvvigionamento economico del governo di Sarraj, che è per buona parte destinata all'acquisto di armi per la sua difesa. Già nei giorni scorsi, le milizie di Haftar hanno bloccato l'esportazione di petrolio da 5 porti, fra cui quelli di Sidra e Ras Lanuf, considerati i due maggiori terminal petroliferi libici. La perdita economica per il governo di Sarraj è ingente. Secondo quanto affermato dalla stessa NOC, da questa situazione deriverà una perdita di produzione di greggio di 800.000 barili al giorno e perdite finanziarie per il paese di circa 55 milioni di dollari al giorno. Inoltre, gli effetti del calo della produzione di petrolio in Libia, come in Iraq, ha inevitabilmente prodotto un aumento vertiginoso del prezzo del petrolio. E questa probabilmente è la più formidabile arma che il generale Haftar poteva mettere sul campo di battaglia. Non parlano soltanto i pick-up con i 22 mm montati sopra, l'aviazione emiratina, i droni, quelli di fabbricazione cinese, i mercenari della Wagner, c'è anche il petrolio, è una risorsa. Dobbiamo ricordare che fino a questo momento non erano state toccate le postazioni petrolifere, era come se fosse un tacito accordo, no? Visto che la NOC va poi a ripartire i proventi tra i due governi, si è detto, beh, non innalziamo lo sconto, non facciamoci troppo male. Adesso Haftar, a dispetto dei colloqui di pace di Berlino, ha messo la quinta e promette di fare tanto male, non soltanto a Tripoli, però, Roberto Bongioni, anche a se stesso, anche a Bengasi. Come la vedi questa? Io la chiamerei a tutti gli effetti escalation di guerra. Assolutamente un'escalation, hai detto tutto tu, nel senso che è giustissima l'analisi sintetica, ma Haftar controlla i pozzi, ma anche se li controllasse tutti, il 100%, non può esportare e vendere greggio con le petroliere in mare perché vige un accordo e un embargo delle Nazioni Unite. Questo invece sembra efficace, che riconosce solo la NOC di Tripoli per esportarlo. Quindi le rendite del petrolio della NOC vanno alla banca centrale, che le ripartisce a due governi che poi si fanno la guerra. Questo è un po' il paradosso libico. Sì. Però questo per dire che negando il petrolio all'avversario, Haftar lo nega a se stesso. Sì. Ora, solo una conclusione. Sì. Il petrolio è la linfa vitale della Libia, 95-97% del valore dell'export ed oltre il 90% delle entrate governative, ma lo è anche di là. E quindi, insomma, la Cirenaica non è messa molto bene. Per far finanziare la guerra ci vogliono i soldi, ci vuole il petrolio. E quindi vedremo. Sembra in sostanza che voglia, come dire, mettere di fronte, ha fatto compito una paralisi estrema, vedere chi resiste, togliere l'ossigeno da una camera, chiudersi dentro una camera, vedere chi trattiene il fiato di più. Mi perdonerete per questa analisi e sintesi forse un po' prosaica. Grazie mille. Roberto Bongioni, inviato del Sole 24 Ore, ci ha raccontato un po' di retroscena di Berlino e poi, senza mai dimenticare il terreno, come facciamo qua noi a Nessun Luogo Lontano, vi abbiamo raccontato forse quella che è l'arma definitiva messa in campo in questo conflitto, che è il petrolio. Piccola pausa, l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Ultima ora, il gatto tigro al Giro d'Italia. Ma no, basta fake news! Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy, con carne fresca per un'appetibilità straordinaria. Monge, il pet food che parla chiaro. Con Suzuki 4x4 All Grip ogni percorso sarà una sfida da vincere. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip, risveglia il tuo istinto, scoprila sabato e domenica. Info su suzuki.it. Suzuki. Ogni giorno siamo bombardati da notizie, immagini e informazioni, ma troppo spesso quello che è davvero importante non viene spiegato o viene addirittura nascosto. Se non vi accontentate, su 9 ci siamo noi. Peter Gomez presenta Sono le 20, l'informazione che si vede. Questa sera alle 20 sul canale 9 del Digitale Terrestre. Buongiorno. Buongiorno. Mi hanno detto che questa Mini ha i fari B-LED come optional. Le hanno detto male. Ah, e l'Active Guard? Nemmeno. Il Cruise Control? No. Almeno i cerchi in lega. Quelli da 17? Sì. No. I cerchi in lega? L'ha appena chiesto. Niente un optional, perché tutto è di serie. Mini Countryman nuova Baker Street Edition 102 cavalli. Tua a 23.400 euro con ecobonus mini ove applicabile e 5.170 euro di vantaggi inclusi. Scoprila in tutte le concessionarie Mini su mini.it. Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. E Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Il giorno dopo la conferenza di Berlino si è parlato, a Berlino si è parlato tanto, lì nella sede della cancelleria tedesca, una selva di dichiarazioni da parte dei pesi massimi della politica internazionale subito dopo l'incontro con Serraj Haftar, che neanche si sono degnati di uno sguardo, ce lo riferiva Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore. E però sul terreno sono accadute cose in questo weekend. Intanto si continua a sparare, le notizie non sono tranquillizzanti. A sud di Tripoli il fronte è ancora caldo, ma non solo, e soprattutto il generale Haftar ha chiuso i rubinetti del petrolio. 349-238-6666, c'è chi dice e lamenta l'assenza di peso dell'Europa, qualcun altro che dice ma Haftar potrebbe arrivare nel commettere, chiamiamolo azzardo, come ultima mossa, dare fuoco ai pozzi petroliferi, e qualcun altro che invece dice che gli embarghi ONU in realtà non hanno mai funzionato. Insomma, il vertice di Berlino è stato un successo o una clamorosa sconfitta? Io girerei pari pari la domanda al mio prossimo ospite, Romano Prodi, presidente del Consiglio già più volte, inviato speciale dell'ONU per il Sahel, fra le altre cose. Presidente Prodi, buongiorno, ben ritrovato Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti voi. Allora, partiamo da questa domanda telegrafica, diciamo, successo o fallimento? Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, con più vuoto che pieno. Questa è in sintesi, no? Cioè, lei dice... Attenzione, una selva di dichiarazioni, un boschetto di dichiarazioni, perché tutti sono stati abbastanza prudenti. La stessa Merkel ha detto, si è fatto qualche passo in avanti, ecco, non ha detto nulla di più, ma era difficile fare meglio. Qual è il punto positivo di Berlino? Si è fermata l'escalation, ed è la dichiarazione della cancelliera tedesca. Il resto è tutto da vedere in futuro. Sì. Dobbiamo dire che anche l'implementazione delle decisioni prese sull'embargo delle armi e quindi sul controllo dei conflitti futuri è rinviato, la esecuzione è rinviata a tempi futuri, quindi è un gesto importante perché è dichiarato dai massimi vertici dell'economia della politica mondiale, ma senza gli strumenti di implementazione. Cioè è un grande gesto di buona volontà, non di più, perché nel frattempo, lo ha detto lei nella sua domanda, nel frattempo in Libia si menano e i pozzi del petrolio, e il petrolio non viene imbarcato. Sì. Presidente Prodi, stia con noi, intanto leggo un paio di sms e whatsapp arrivati, proviamo a stabilire una linea un po' migliore. Messaggi appunto arrivati al 349-238-6666, c'è qualcuno che dice: qualcuno a Berlino sapeva che i capi tribù hanno un orgoglio smisurato, non sono persone alle quali imporre qualcosa, evidenziando quella che è una cosa che ripetiamo spesso da questi microfoni, alcuni quadranti, alcuni settori, alcune crisi, soprattutto Medio Oriente allargato, Nord Africa, non possono essere valutati con le ottiche occidentali. Ma perché Macron sta con Haftar e così divide l'Europa? Non è una cosa molto grave, si chiede retoricamente un altro ascoltatore. Cos'è l'Europa? Soltanto l'Europa ci tiene uniti, l'euro ci tiene uniti, il resto siamo divisi alla faccia dei proclami. Così Gianni, che lamenta appunto una mancanza di unità che in realtà è arrivata, complice Angela Merkel, la cancelliera, che è riuscita a fare quello che in realtà le altre diplomazie per il momento non erano riuscite a fare. Stiamo ristabilendo la linea col presidente Romano Prodi, lo ricordo, inviato speciale dell'ONU per il Sahel, fra le altre cose. Era il 2012, una crisi incredibile che era partita dal Mali, cui in realtà gli effetti nefasti si vedono tuttora. Molto spesso parliamo di Sahel, no? Burkina Faso, Niger, Mali, che ha quella crisi, e questa crisi ha delle attinenze e delle contiguità interessanti con quella che è la crisi libica, dinamiche tribali in alcuni casi, contiguità territoriale in altri casi. Fatemi sottoporre la vostra attenzione, mentre aspettiamo di ristabilire la linea, quello che è soprattutto la grande mancanza, a mio parere, di quello che è uscito dal vertice di Berlino, cioè meccanismi sanzionatori veri e propri. Come ben ribadito anche da Roberto Bongiorni, il problema non sono tanto le dichiarazioni di intenti, cioè l'embargo che, pensate, è in vigore dal 2011, cioè da quando c'è stata quella cosiddetta primavera araba. La comunità internazionale ha detto: beh, attenzione, adesso non devono più circolare armi, e quella cosa purtroppo è rimasta assolutamente assolutamente lettera morta. Se poi andiamo, come dire, a analizzare le cose dal punto di vista finanziario e prendiamo per vero quella che è un'inchiesta di alcuni mesi fa del Wall Street Journal, il generale Haftar andò a farsi una gita a Riyadh e, secondo le indiscrezioni di questo giornale, ricevere milioni e milioni di dollari per finanziare la propria campagna. Abbiamo ristabilito il collegamento con Romano Prodi. Presidente, ben ritrovato, eccoci. Sì. Allora, stavo sottolineando l'assenza di meccanismi sanzionatori, cioè la comunità internazionale si mette d'accordo dicendo embargo, dissolvimento delle milizie, ma in realtà poi se non si sanziona ognuno fa quello che vuole. Evidentemente, non solo gli elementi sanzionatori, ma anche specificare gli strumenti con cui viene fatto questo, ecco, questo manca, e soprattutto, chiediamoci, la Libia, se non arriva il petrolio, se non parte il petrolio, quello finanzia tutti gli equilibri della Libia di oggi. Fra pochi giorni i serbatoi non tengono più niente, si deve sospendere la produzione. Senta, gli esperti calcolano che con le decisioni prese da Haftar possa partire dalla Libia massimo 100.000 barili al giorno. La produzione precedente era 1.200.000 barili al giorno. Allora, voglio dire, come, per quanti giorni si tengono gli equilibri della Libia in una situazione di questo genere? Questo è il mio primo problema. Sì. Soprattutto, vediamoci, non si sono stretti la mano i due contendenti, non vi è la Libia, le tribù libiche al tavolo delle trattative. Esattamente. Quindi è una tradizionale riunione delle grandi potenze, con l'efficacia e l'importanza di questo, ma non con la possibilità di avere effetti sul terreno più di tanto. Ecco. Sì. Quindi... un buon rinvio della guerra. È così, ammesso e concesso che Haftar non voglia mettere la quinta, perché, come dire, occupare Tripoli, occupare l'istituzione, ancora una volta mi rifaccio all'intervento precedente di Roberto Bongiorni, significa andare a mettere le mani davvero sul petrolio libico e poi mettere la comunità internazionale di fronte a fatto compiuto. E tra gli attori, io ho una sensazione, Presidente Prodi, però mi sconfessi pure se non la pensa come me, che questa conferenza di Berlino e questa crisi libica, oltre a, secondo me, ignorare le istanze dei libici, abbia concesso un palcoscenico a potenze minori che si sono affacciate sul Mediterraneo, minori tra virgolette, attori che fino adesso erano di secondo piano, e sta costituendo un formidabile trampolino politico internazionale per tanti attori. La Turchia su tutti. Allora, se vuol sapere il mio parere in materia, so che questo aspetto è molto significativa, perché è una affermazione esplicita del fatto che gli Stati Uniti non ne vogliono più sapere, tutto sommato. E quello, il grande fatto è proprio che sono gli Stati Uniti a lasciare libera alla Russia e alla Turchia l'ingresso del Mediterraneo. Cioè, questa conferenza è un ulteriore passaggio dal monopolarismo al multipolarismo del mondo. Sì. Gli Stati Uniti non fanno più i poliziotti di tutti. E allora è chiaro che nel Mediterraneo arrivano coloro che sono pronti, la Turchia e la Russia. Con però, e qui è un altro piccolo aspetto positivo della conferenza, l'Europa finalmente può avere una linea. Cioè la Germania, forte di una politica estera più saggia rispetto all'Italia e alla Francia, sia, se ricordi, l'Iraq, sia nella Libia, ha la possibilità di mettere assieme gli interessi europei. Qui occorre una seconda tappa, che Francia e Italia si mettano d'accordo, perché finora la Francia ha fatto il suo gioco per spodestare l'Italia della Libia, e noi, tutto sommato, avendo fatto l'intervento che abbiamo fatto, non sapevamo più che pensi prendere. Sì. Questa è la storia passata. Lei mi chiederà, ma c'è possibilità di un'azione comune fra Italia e Francia? Nel prossimo futuro penso di sì, perché la Francia ha dei gravissimi problemi in tutta l'Africa subsahariana, avrà bisogno del sussidio europeo, dell'aiuto europeo, e qualche modo la Francia capirà che la sua politica estera può essere efficace solo se è politica estera con l'Europa. Questo è il fatto che emerge dalla conferenza, al di là dei singoli punti di successo o di insuccesso. C'è una prospettiva per l'Europa, sì, sì, seguendo la linea che la cancelliera ha delineato. Non è poco, ecco, soprattutto ricordiamoci che gli Stati Uniti saranno molto più selettivi anche in futuro nei loro interventi. Sì. E la Libia non interessa. Sì, e più volte l'abbiamo ripetuto che almeno un parziale disimpegno del Medio Oriente allargato e Nord Africa anche degli Stati Uniti sta creando dei vuoti riempiti da attori, li menzionava anche il presidente Prodi. Se la sente, presidente, dare un voto, una pagella alla politica estera italiana? Da più parti si è sottolineato il ritardo nell'intervento nella crisi libica. Secondo lei, da questo punto di vista, c'è stata, come dire, una certa inerzia nel... Guardi, dall'inizio della guerra in Libia il giudizio più serio dal punto di vista scolastico è non classificato. Vabbè, impietoso direi. Romano Prodi, che ringrazio per essere stato con noi, lo ricordo, già Presidente del Consiglio, inviato speciale dell'ONU per il Sahel, ed è per questo che l'avevamo chiamato, alla sua lunga esperienza e conoscenza soprattutto del teatro libico. Presidente, buona giornata, buon lavoro, grazie per grazie essere stato voi, con noi. Allora, tra poco ho una fila lunghissima di messaggi di cui darvi conto, arrivati al 349-238-6666. Mi sa che occuperanno praticamente l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Adesso facciamo una piccola pausa. Andiamo a sentire la situazione sulle strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa prima puntata della settimana di Nessun Luogo Lontano cerchiamo di fare il punto su quello che è accaduto, o forse meglio dovremmo dire non è accaduto, ieri a Berlino. Tante strette di mano, tante parole, tanti colloqui, tantissime dichiarazioni di intenti, dichiarazioni di comunanza di interessi fra le grandi potenze che hanno messo le mani sul dossier libico, con la presenza nelle stanze attigue della cancelleria di Sarraj e Haftar, i due grandi protagonisti della crisi libica, che mandavano i loro assistenti di corsa tra un tavolo e l'altro per capire meglio cosa si stessero riferendo i potenti e i vari ministri degli esteri. Non si sono incrociati, non si sono stretti la mano. Sarraj ha detto recentemente, agenzia battuta poche ore fa, che non vuole rincontrare ancora una volta Haftar. Dicevo, da Berlino c'è stato un grande sfoggio di sorrisi e di dichiarazioni di comunanza su quello che bisogna fare in Libia. Bisogna rispettare l'embargo sulle armi, bisogna dissolvere le milizie, bisogna condurre il paese a delle elezioni, bisogna rispettare i diritti umani. Purtroppo la risposta del terreno è diverso, ve lo dicevo. Vi sono scontri a sud di Tripoli, vi sono scontri nella zona di Sirte e droni o aerei da parte di Haftar hanno sorvolato la capitale recentemente. Insomma, in sostanza, che cosa è mancato? Beh, quasi tutto. I meccanismi sanzionatori sono affidati all'ONU. L'ONU dovrebbe andare poi in sede del Consiglio di Sicurezza per discutere esattamente cosa fare, ma nel Consiglio di Sicurezza vi sono le stesse persone che hanno discusso ieri, ma non lo so davvero se faranno passare alcune risoluzioni. Veniamo a voi, al polso degli ascoltatori di Nessun Luogo è Lontano. Il primo messaggio è piuttosto lungo: l'obiettivo di Putin in Libia è condizionare le forniture di petrolio e gas totalmente, vedi Ucraina e Turkish Stream. Allo stesso modo Trump ha sempre parlato di male della NATO e guarda caso le linee politiche dei due si sovrappongono, e poi parla del braccetto che ormai Turchia e Russia condividono, anche se attenzione che Turchia e Russia su quello scacchiere sono avversari. La Turchia è stato l'unico grande stato sovrano ad appoggiare il governo libico riconosciuto. Un altro ascoltatore che nel messaggio precedente diceva forse gli Stati Uniti hanno ragione, la Libia deve risolversi il problema da sé. Haftar ha giocato la carta del blocco delle esportazioni di petrolio e si è dato la zappa sui piedi. Ma chi pensiate che abbia la peggio nel medio-lungo periodo, Haftar o l'Unione Europea, a meno che Putin non gli regali tutti i barili di cui necessita o gli dia denaro. Senza soldi anche le milizie a lui fedeli lo abbandoneranno. Ma questo è proprio il punto che sottolineavo prima con quella forse non particolarmente simpatica metafora. Ci chiudiamo in una stanza e vediamo chi resiste di più senza respirare, insomma con l'ossigeno che sta finendo. Va anche ricordato però, attenzione, riguardo alle esportazioni di petroli illegali che Haftar da Bengasi ogni tanto riusciva a far passare delle petroliere che raggiungevano Malta. Ne avevamo parlato qui nel suo luogo lontano, certo non assolutamente non gli stessi livelli di export che invece sono garantiti a Tripoli dalla presenza del NOC, l'autorità centrale petrolifera libica. Peraltro dal punto di vista finanziario c'è anche il fatto che Haftar si fa stampare i soldi dai russi, insomma in qualche modo sta cercando di aggirare quelli che sono i condizionamenti anche strettamente finanziari. Ma lo ripeto ancora una volta, se fosse confermata quello scoop incredibile del Wall Street Journal di qualche mese fa, probabilmente Riyadh ha dato ad Haftar un po' di milioni che sono lì nelle tasche pronti per comprarsi altre armi. E non dimentichiamo, anche se pur in misura ridotta, il contrabbando di petrolio con l'Egitto a fronte di armi. A volte non so di cosa stiamo parlando in Libia, ci sono solo 6 milioni di persone, a Roma e dintorni sono di più, quindi qual è la difficoltà di farli accettare un accordo? Molto semplice, ci sono almeno 300 tribù in Libia, vi sono quelle più importanti, quella da cui proviene Gheddafi, per esempio la zona di Sirte, ci sono quelle di Misurata, ogni tribù, quasi ogni tribù ha la sua milizia, e cercare gli accordi anche nel Parlamento di Tripoli fra tutte queste anime non è affatto facile. Vi ricordate quando vi abbiamo raccontato della presa di Sirte poche settimane fa? Ebbene, lì è accaduto per esempio che una brigata che era la stessa fra l'altro che aveva liberato Sirte dall'ISIS e quindi dallo Stato Islamico, a un certo punto ha fatto il voltafaccia e invece di fermare l'avanzata di Haftar lo ha fatto entrare in città. Da ciò capite le dinamiche, quanto sono come dire difficili da afferrare, perché molto liquide, cambiano costantemente. E qua bisogna ammettere, la politica internazionale ha un compito veramente improbo nell'andare a fotografare una situazione, cercare di individuare le problematiche e poi individuare le soluzioni. Com'è possibile che la Russia, con un PIL più o meno uguale a quello italiano, conti più di tutta l'Europa intera? Lo abbiamo spesso ribadito qui a Nessun Luogo Lontano, della come dire efficace e spavalda strategia di Putin all'estero, molto spesso con l'utilizzo di milizie, nel caso della Wagner per esempio almeno 600 uomini secondo le fonti sarebbero lì assieme alle truppe di Haftar. C'è davvero una politica estera molto muscolare, molto espansiva, a dispetto di una situazione interna che assolutamente non è rosa. È uno dei grandi paradossi forse della Federazione Russa. E poi c'è qualcun altro che torna al 2011 e credo, a mio parere, anche giustamente. Sulla Libia qualcuno si dovrebbe chiedere chi ha creato tutto questo caos, chi sono coloro che hanno destabilizzato la Libia, i danni vanno addebitati ai colpevoli e ringraziate chi l'ha destabilizzata. E dice questo ascoltatore, facendo riferimento a quello che era il 2011, l'inizio di quella cosiddetta primavera araba che ha portato a tante conseguenze, tra i tanti difetti che si potevano sottolineare del colonnello Muammar Gheddafi sicuramente c'era una visione di Libia unita, lo ha fatto spesso con il pugno di ferro, è riuscito in qualche modo a mettere insieme tutte queste diverse anime, è riuscito a comprimere quello che erano tendenze jihadiste molto forti. Derna per esempio, non è un caso, 2003-2004, una statistica che ripeto spesso sconvolgente, il 90% degli attentatori suicidi e quindi dei kamikaze che si facevano esplodere a Baghdad arrivavano da Derna, questi dati del 2003-2004. E nel 2011 vi fu un tentativo di istituire un califfato, un stato islamico, se volete, ante litteram, proprio lì a Derna. Ebbene, durante il tempo di Gheddafi quelle tendenze estremiste erano sicuramente complesse. La storia poi ha dato tutto un altro corso, così come la storia ci dirà, ma anche molto breve, non speriamo di non dover aspettare qualche anno, se la conferenza di Berlino di ieri è stato un successo o un fallimento. E pochi secondi per dirvi una sola cosa, che è ordine. E per lanciare i titoli di coda, che servono a ringraziare tutta la squadra di Nessun Luogo, voi che siete stati all'ascolto, l'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.